Nella macabra conta delle vittime del sisma che ha colpito quasi tutte le coste dell'Asia, corrono il rischio di esserci molti buchi, e non solo perché, per qualche bizzarro motivo, salvo rare eccezioni, ogni governo ce la mette di solito tutta per nascondere il numero reale dei decessi. Il fatto è che sulle coste dell'Asia, dallo Sri Lanka all'Indonesia, dall'Oceano Indiano al Mar Cinese Meridionale, tanta gente non sa nemmeno cosa sia un registro di nascita, un semplice foglio del catasto, un archivio. Semplicemente non li ha mai visti o non ha mai avuto una proprietà. In un mondo dove la proprietà privata è sempre più una virtù, non possedere se non le proprie braccia significa anche questo, non esistere, non essere mai esistiti dal momento che manca una data e un pezzo di carta. In Indonesia è normale che il vostro interlocutore non conosca la sua età e in molti paesi dell'Asia i documenti sono un lusso che non è per tutto. Le opportunità di lavoro, non meno dei conflitti che originano vasti spostamenti di popolazione, hanno prodotto esodi importanti che spesso sfuggono ai censimenti. Sulle coste, attratti dal turismo, si aggirano gli stagionali, lontani da casa centinaia di chilometri, oppure si improvvisano villaggetti di materiale deperibile per trovare riparo nella stagione della pesca. Sono popolazioni in pericolo, ma di questa gente, come dei contadini o dei pescatori poveri, dei manovali stagionali, degli sfollati che hanno dovuto lasciare le proprie case, difficilmente c'è traccia nei registri, nemmeno nel bilancio di queste ore, che potrebbe continuare a salire, senza neppure includere tutti quelli che ne avrebbero diritto. Emanuele Giordana, lettera 22 a Misnet.